Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 19 marzo 2015. In Italia cancellato il digital divide. Siamo tutti connessi. Il risultato è stato raggiunto nel corso del 2014, in ritardo di qualche mese sugli obiettivi europei. Ora la notizia è ufficiale. Dalla fine dello scorso anno, tutti gli italiani hanno conquistato la possibilità di accedere ad una connessione internet. Il digital divide, che da anni affligge il nostro paese e che fino al 2012 impediva a 4 famiglie su 10 in Italia di attivare ADSL residenziali, è solo un ricordo. Anzi, un terzo degli italiani ha anche raggiunto i 30 megabyte di connessione. Si spera che la piena cittadinanza digitale abbia presto effetti positivi anche nei rapporti degli italiani con la pubblica amministrazione. Da quest'anno è infatti obbligatorio per tutti relazionarsi con uffici pubblici e istituzioni solo per via elettronica e tramite la PEC. Fin qui la notizia del 19 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Secondo l'Istat, finora il 41,7% delle famiglie italiane non dispone di un accesso internet, soprattutto perché non ha sufficienti competenze. Il problema quindi non è solo di infrastrutture, ma anche di divide culturale. L'obiettivo è però vicino, lo ha confermato al microfono di Jacopo Matano Riccardo Luna, giornalista, primo direttore di Wired Italia, coordinatore del progetto Innovation Account Board di Expo 2015. Io credo che entro il 2014, quindi in leggero ritardo sugli obiettivi europei, ma in grande anticipo su quello che pensiamo oggi, l'Italia avrà risolto per sempre il problema del digital divide, cioè tutti gli italiani saranno finalmente connessi a internet e un terzo degli italiani saranno connessi almeno a 30 megabit. Questo vuol dire un utilizzo di internet generalizzato, per esempio nei rapporti con la pubblica amministrazione, quindi probabilmente non ci sarà più la carta in un sacco di operazioni che facciamo con lo Stato, ma vuol dire anche un utilizzo di internet intensivo a 30 megabit, quindi con l'utilizzo di video e videoconferenze per tutte le grandi città italiane. Quindi immagino finalmente un paese che dal 2014 comincia a diventare molto molto moderno. Che cosa invece saremo in ritardo? Il vero problema che noi scontiamo è un po' il problema culturale, cioè abituarci all'innovazione, abituarci a usarle con certe cose. Io spesso si parla, io ne ho parlato anch'io spesso in passato, del diritto a internet. Io credo che dovremmo cominciare a valutare anche l'ipotesi di un dovere a internet, cioè il dovere di imparare a usare questa tecnologia e usarla nella vita quotidiana, perché è utile a noi ed è utile anche al paese in cui viviamo. Cioè eliminare la carta, eliminare le code, eliminare le file, collaborare con le persone in rete vuol dire maggiore efficienza, maggiore innovazione. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.